24 mattino. Senti, però ci sono stati anche cartelli al nord, cioè sono comparsi striscioni con scritto siete i campioni del Nord Africa. L'unità d'Italia non è mai avvenuta. Boh, ah, io che su invidie, cose che chi vince sa da portare dietro, non esistono problemi. Io preferisco essere un campione del Nord Africa piuttosto che mettermi a fare striscioni da Sudafrica. Nel giorno dell'aggressione al cingalese, Massimo Troisi ci ricorda con ironia il senso profondo di alcune cose importanti e siamo qui. 24 mattino, 8:19, 45 secondi, cani e gatti, Luca Telese, Oscar Giannino, presso con noi Francesco Merlo. Ricordate la segreteria telefonica per i vostri messaggi più profondi, 02 30 22 44 92. Anche oggi ci avete fatto sognare. Gli sms al 349-238-8666, cioè 238-6666, e poi le telefonate al 02 30 22 44 92 sui temi della rassegna stampa, su altri che vi abbiano avvinto. Allora lì davanti a me, separato da pochi centimetri ma in realtà da centinaia di chilometri, vestito con un pullover verde Padania, c'è Oscar Giannino. Ciao! E là ricordiamo anche, ciao fratello Luca, ricordiamo anche il povero clochard che hanno bruciato a Torino, a opzioni di secondo e terzo grado. Non è una bella cosa, perché questo signore pare che in realtà non facesse male a nessuno e passasse la sua vita poco dignitosa e poco umana di carità che gli veniva offerta, solo che qualcuno ha pensato bene di bruciarlo vivo. Va bene. Diciamo così. Allora, la rabbia feroce dei tempi. E, dunque, delle cose sfiziose, secondo me è interessante questa cosa. Diamo buone notizie, non date mai buone notizie. 144% l'industria alimentare sta trainando l'Italia, è una bolla, dici, ma sì, vabbè, poche cose. 300 miliardi vale questa cosa. E devo dire, mi piace il gioco di parole del tempo, il prodotto interno lardo. Devo ammettere, sì, è ben fatta questa battuta. Beh, io si può sempre volgere in buona notizia quella che apparentemente sembra una cattiva. Per esempio, sul Sole 24 Ore di oggi si documenta come in un terzo dei capoluoghi italiani la Tari sia illegittima, cioè vi rapinano dei soldi, ma potete sempre vederla come i due terzi invece, se siete fortunati e siete nei due terzi dei capoluoghi, vi chiedono di meno e non vi truffano, ma in un terzo dei capoluoghi invece vi truffano, documenta il Sole 24 Ore. È bene leggere la lista dei capoluoghi in cui nella parte varia. Cita. Perché si tratta di un computo che è stato definito illegittimo, ripeto, riguarda la parte variabile dovuta al numero dei familiari, e quindi trovate su questo, a pagina 9 sul Sole 24 Ore del lunedì di oggi, un articolo di Gianni Trovati con l'elenco delle città in regola e l'elenco invece di quelle che non sono in regola. Ripeto, è illegittimo perché moltiplica l'importo della tassa sui rifiuti. Però appunto noi esistiamo e i colleghi del Sole, a cui va reso grazie, esistono perché questa cattiva notizia, il terzo dei capoluoghi in cui vi fregano, si può sempre vedere come, ma però esiste anche la fortuna dei due terzi. È sempre sul Sole 24 Ore. Un tempo si diceva la società dei due terzi. Beh, ti do il colpo di grazia, ma lo sai che il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto le Olimpiadi ai videogiochi, ma questa è la follia pura. Dai. Però è incredibile, pensa quanti figli di miei amici hanno qualche chance di andare nelle squadre olimpiche. Ecco, subito il particolare, ha ragione Guicciardini. Con noi Francesco Merlo, buongiorno. Buongiorno Oscar e buongiorno Luca. Allora, ha fatto il giro della rete questa super articolessa, un raccontone meraviglia, quasi letterario, meraviglia, sulle elezioni siciliane. Quindi, siccome le ha raccontate i lettori del Venerdì e di Repubblica, dobbiamo chiedere a Francesco Merlo di raccontare anche a noi qualche lampo di questo splendido affresco. Da dove partiamo, Merlo, per raccontare queste elezioni? Che condizioni hanno la politica italiana e le elezioni nazionali? Ma possiamo partire da questo concetto che tu hai appena espresso, cioè che la Sicilia è un laboratorio di cambiamento, però poiché per statuto ontologico la Sicilia non può cambiare, come ha stabilito una volta per sempre Tommaso di Lampedusa e il Gattopardo, cambierà sì, ma non cambierà se stessa, cambierà l'Italia però. Facciamo quattro micro ritratti dei principali contendenti, e fra l'altro abbiamo sentito e sentiremo a questi microfoni. Bellissimo l'affresco sulla Catania, del fascismo per bene, dici, e del fascismo, come erano le due anime missine che Benito Paolone, ma chi l'ha conosciuto non lo dimentica. Ti mangio il cuore, no? Come diceva? Sì, diceva io ti mangio il cuore, e poi partiva all'assalto con due grandi cani bastardi e con alcuni atleti della squadra di rugby che lui allenava, che era l'Amatori, e quindi diventava difficile resistere. E lui diceva erano i fascisti lupi in quegli anni, io li chiamo così, poi c'erano i fascisti miti. Ti mangio il cuore, ad Almirante diceva Giorgio, noi l'amore lo facciamo sugli alberi. Questo è interessante come notazione antropologica. E invece parli di il candidato invece più importante, Musumeci, col pizzo risorgimentale, un po' Italo Balbo, un po' Kit Carson, forse non tutti se lo ricorderanno. Ma come no, fumetti. Forse Oscar sì, tu. Vabbè, no, perché sei più giovane. È più giovane, è vero. Dai. Ahimè, è più giovane di noi. Lui è il fascista per bene, anche se lui non si riconosce nella parola fascista, è stato sempre nel movimento sociale in cui milita da quando aveva 16 anni, e con questo pizzetto fascio monarchico che gli consente di dire, vista la sua, il rispetto e l'onestà che può sicuramente vantare, che il suo è un pizzetto, ma non è un pizzo e non è nemmeno un pizzino. E con queste battute fa una campagna elettorale fondata sulla forza del suo mito di persona per bene, il fascista per bene, che lui dice per voi di sinistra è un ossimoro. In realtà non è così, perché poi anche la sinistra ha scoperto, c'è la famosa canzone di Giorgio Gaber sul vecchio zio fascista, che è molto bella, cioè anche noi abbiamo scoperto che dietro, poi tu hai scritto Cuori Neri di Luca, che è un libro che in qualche maniera racconta quel mondo. Finiamo i ritrattini. Micari, tu dici elegante, forbito, non molto conosciuto, soprattutto nella Sicilia orientale, ma mi ha colpito molto la citazione che hai rubato a una sua scena, in cui lui cita un bellissimo bufalino per dire che teme di non vincere, ma lo fa in un modo letterario stupendo. Sì, lui dice i vincitori non sanno cosa si perdono, ed è vero, perché i due candidati della sinistra sono tutti e due di ottimo livello, e sono Micari, appunto, che è il rettore dell'Università di Palermo, che è a Palermo, ha la sua università, e anche Orlando che lo appoggia, ma in Sicilia orientale è un carneade. E quindi in Sicilia orientale è chiaramente destinato ad essere sconfitto, anche perché in Sicilia orientale Fava è molto forte, perché è figlio di un eroe antimafia che a Catania è nato, lì ha svolto la sua attività, è cresciuto, eccetera. Quindi e questo è importante, perché dà un altro segno delle elezioni: per la prima volta la Sicilia orientale, cioè Catania, Siracusa, è più importante della Sicilia occidentale, perché Nello Musumeci è di Militello, che è in provincia di Catania, ed è lì che Nello Musumeci prende voti a sinistra. Questa è manca Micari, che oggi abbiamo documentato, è un po' sugli scudi. Lui, per rispondere a una battuta di un militante 5 Stelle che gli contestava di aver nominato Musumeci, partecipato con il voto alla nomina di Musumeci all'antimafia, lui risponde: è un piacere che gli abbiamo fatto, perché aveva perso il figlio. È stato un po' uno scivolone, ma raccontaci chi è il candidato dei 5 Stelle. È una stupidaggine, se tutte le persone che perdono figli diventassero eroi antimafia, sarebbe un paese veramente da buttare, cioè non c'entra nulla. Musumeci è stato per 10 anni presidente della provincia di Catania, ha già preso per esplicita dichiarazione, io ho telefonato al preside della facoltà di scienze politiche, che è il professore Barone, un amministratore, un amministrativista molto, molto conosciuto, un uomo del PD, è stato per il PD sindaco della sua città, che è Modica, e a lui Micari aveva offerto la candidatura, e lui mi ha detto: ma lei come lo sa che io voto Musumeci? Sono di là, mi sono fatto il conto. E mi ha detto: effettivamente lo faccio, e lo faccio nonostante le porcherie che lui ha in lista. Questo è molto importante. La complessità della Sicilia, vedi, Oscar. Sì. Ma devo dire, io davvero dico a tutti: leggetevi, procuratevi Venerdì di Repubblica con l'articolo di Francesco anche Merlo, su francescomerlo.it, perché esatto, su francescomerlo.it, perché è fantastico. Cioè, io ho due grandi punti di riferimento, nel senso che Petrangelo Buzzafuoco nelle sue prose c'ha il fuoco etneo della Sicilia, invece Francesco Merlo, da che lo conosco, c'ha i venti della Sicilia, e sono i venti in cui spesso, e questa grandezza di Francesco, per questo leggetelo, si portano via le troppe parole della Sicilia. E anche questa campagna elettorale, la mia domanda a Francesco è questa, perché una delle caratteristiche è, ci sono due caratteristiche di fondo, quattro per bene, cioè i candidati si riconoscono l'un l'altro, al fatto che rispetto alle elezioni con personaggi, insomma, che conosciamo e che erano eccezione a questa regola, si riconoscono il fatto di essere quattro per bene. Prima domanda, cosa vuol dire? Seconda domanda, però, tutti quanti dicono: ci abbiamo nelle liste tutti quanti degli impresentabili, che è, come dire, la caratteristica siciliana. Però tu dici: però alla fine che cosa cambierà per l'Italia? Allora, a me interessa arrivare a questo punto, però partendo dalle prime due cose, del paradosso di quattro per bene, grande avanzamento, che tutti però riconoscono, ciascuno per sé, però subisco degli impresentabili. Ma com'è possibile? Quello che dici tu è giustissimo, ed è la combinazione delle due cose che in realtà è una cosa... Veramente che... questa è la questione, sì. Sì, è la combinazione delle due cose che pone la questione, cioè hai... il futuro presidente, che probabilmente sarà o Musumeci o il Grillino, sono loro che si contendono, diciamo, il fascio per bene e lo sfascio per bene, che si contendono la presidenza della regione, e sarà una persona per bene. E qui si apre un futuro complicato, perché in Sicilia l'idea di un presidente prigioniero del proprio partito o delle proprie liste è una cosa che abbiamo già visto, e in genere si può concludere solo in due modi: o il presidente ci perde la reputazione o ci perde la vita, e lo dico sapendo quello che sto dicendo, stiamo parlando di Mattarella, ma stiamo parlando della terra che è ancora una terra di mafia, perché quando parliamo di ceffi nelle liste, la impresentabilità nelle liste non è una faccenda di poco conto, perché sono collegati a ceffi, appunto, che controllano il territorio, lo presidiano più o meno come i barboni presidiano le uscite dei supermercati o i gradoni delle chiese. Per cui questo futuro qui potrebbe, proprio perché sono, io ho chiesto a Musumeci, ma esclusi i presenti, cioè escluso te, tu chi voteresti? E lui mi ha detto: per me sarebbe duro farlo, perché è molto ideologico, però voterei alla fine, per onestà e per coerenza, Claudio Fava. Cioè il candidato della sinistra. Il quale a sua volta... ha detto più o meno la stessa cosa: se non si fosse messo dentro tutte queste brutte figure, eccetera, sicuramente senza esitazione l'avrei votato, lo voterei. Allora, questa idea qui, con quel futuro di cui stiamo parlando, sto facendo un salto in avanti, dà l'idea che tutto può accadere in quel palazzo d'Orléans quando si comincia, e se un presidente vuole resistere alle pressioni che gli vengono dall'interno, ricordatevi che il vero regista delle liste è Micichè. Di cui dici l'aneddoto della battuta ai Ronconi, quello lo devi ripetere, prima della pubblicità. Ci fu una grande polemica sulla rappresentazione delle tragedie greche in cui c'erano maschere di Berlusconi e di Bossi. Micichè disse: proibite quella rappresentazione, e Ronconi rispose. E Ronconi disse: ma chi è questo qui? E gli dissero: Micichè. Cioè, tra i tanti capolavori di Ronconi c'è anche questa piccola facezia e arguzia. Resta lì, pubblicità e torniamo subito dopo. Mattino. Rieccoci, Luca Telese, 8:36 minuti, Oscar Giannino, ancora per noi per qualche istante, Francesco Merlo, dalla Sicilia andiamo a Milano, così ricordiamo dell'appello di Renzo Piano e del sindaco Sala per finire la ristrutturazione di Porto Lambro, mancano 2,5 milioni e si chiede di un partenariato, cioè qualcuno che metta soldi perché la società è dovuta ristrutturare e compiere questo processo di riurbanizzazione è fallita. Un commento, Francesco, rammendare le periferie, no? Ma lì più che rammendare, quello è un investimento molto forte, cioè il Parco Lambro a Milano rappresenta molto e l'idea di trasformarlo non è un semplice rammendo, è molto di più, tant'è vero che c'è bisogno di denaro. I rammendi hanno la caratteristica di costare poco, oltre è vero. Mentre lì c'è molto bisogno di denaro e Renzo Piano ha fatto questo appello ed è abbastanza interessante perché l'appello, la colletta, il denaro che viene dal pubblico applicato all'architettura è fantastico, cioè perché il committente diventa l'italiano comune, il milanese che vuole partecipare alla trasformazione, alla bellezza della sua città. Cioè, se Milano rispondesse in maniera forte, anche questa sarebbe un'altra caratteristica di modernità e di novità che viene dalla città. Oscar, ma non è un po' brutto che si debba ricostruire con le questue? No, secondo me, anzi, a Milano e Lombardia, ma è nel nord più che altrove, ma comunque a Milano è fortissimo in questi anni l'idea di questa grande alleanza pubblico-privata, è fortissimo nella qualità della sanità, nei tipi di interventi sulle maggiori aree. Questo, il Parco Lambro, ha ragione Francesco Merlo, è una enorme simbolica portata, quella del Parco Lambro, perché se ne discute da decenni, ma se vai a vedere le grandi aree in cui c'era stata la grande bolla immobiliare e che poi si sono fermate per gli scandali, vedi Coppola, vedi Statuto e così via, lì c'è stata una grande compartecipazione di energie da parte dei pianificatori, di chi progetta come è giusto il riutilizzo delle aree o magari le ha allocate, e poi di fronte alla crisi di privati, di altri privati che sono arrivate. Quindi io sono convinto che sia una specie di modello, non una chiamata alle armi dalla politica che non ha i soldi, ma un coinvolgimento insieme delle migliori energie, che secondo me è una delle caratteristiche forti per vincere in periodi così difficili. Allora, 800. Ho detto benissimo, condivido. Ricordo una sola cosa che mi raccontò Renzo Piano quando decise di intervenire sul Parco Lambro. Andò lì con Ermanno Olmi e Ermanno Olmi gli disse, il regista, gli disse: sai Renzo, è vero, nei posti più brutti si scoprono le cose più belle. Cioè, nel Parco Lambro c'era il futuro, loro videro il futuro della città, e il futuro della città è davvero, dal punto di è davvero un laboratorio di architettura. Milano è questo. Allora, apriamo le vostre telefonate 800 24 00 24. Francesco, chiederemo a te, siccome ogni tanto duelliamo io e Oscar sui temi, come la pensi, visto che c'è un botta e risposta sul giornale, di questa polemica sul lavoro domenicale? La Chiesa dice ci si deve riposare, alcune madri dicono vogliamo poter non lavorare la domenica, i dirigenti dei supermercati, del commercio dicono se non abbiamo la domenica aperta perdiamo la sfida con Amazon. Qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista non è certamente quello della Chiesa, cioè io penso che uno si debba riposare quando vuole lui, quindi che la Chiesa non ha diritto di stabilire quando gli italiani devono, ovviamente lo può fare con i propri fedeli, cioè può invitare i propri fedeli ad andare a messa e a non andare a lavorare. Tra l'altro le due cose possono non essere in conflitto, però la domenica lavorata chi vuole, non chi deve farlo per forza, chi vuole, è un segno di modernità. Non esiste paese civile dove la domenica non si possa andare a fare la spesa, anzi è uno dei momenti più belli che rimettono insieme le famiglie, le coppie, persino quelle litigarelle come Oscar e Luca. Che andiamo a fare la spesa insieme noi col carrello, sarebbe una scena raccapricciante. Oscar. La commedia all'italiana, in effetti. Allora, arrivano i messaggi: in Germania e domenica non lavora nessuno e non mi sembra che falliscono per colpa di Amazon. Beh, non è del tutto vero, però quello che avevo detto, bisogna poter scegliere. Molte delle madri e anche dei padri costretti a lavorare la domenica dicono almeno fatecene riposare una. Però bisogna poter scegliere, sì, ma il mondo non è fatto di autolavoro scelto, il mondo è fatto, come è ovvio, di lavoro organizzato. Ci sono dei lavori che sì, bisogna fare la domenica, bisogna, nel senso che è necessaria una qualunque idea di società civile organizzata, che vengano svolte la domenica, e sono i servizi ovviamente più o meno essenziali, non sono quelli essenzialissimi ma tanti altri, e poi ci sono l'offerta di servizi che invece fa parte dell'offerta che va data a chi ha un'organizzazione della propria settimana, per cui la domenica può fare solo la domenica quello che altrove non può fare, proprio perché ha un impatto del lavoro nella propria vita molto forte. Questa storia di non lavorare è un rimasuglio come il prepensionamento che ti sta tanto a cuore, cioè è l'idea di continuare ad avere un orizzonte che è quello fordista, che è quello di 100 anni fa, e non capire non significa essere ignoranti. Io lo capisco che c'è un forte contrasto a cambiare, però e questa battaglia di retroguardia su come si lavora, dove si lavora, quanto si lavora, in che forme si lavora, quali sono. Ecco, io sono più aperto, stando al fatto che ho fatto una scelta ovviamente di enorme rischio, partita IVA e contratti che mi scadono ogni X mesi, e purtroppo so che io tante volte sabato e la domenica devo lavorare, perché il mio committente mi chiede una cosa e io sono sostituibile, se non gliela faccio il sabato e la domenica lo decido io, sì, fino a un certo punto tu. Mi piacerebbe dire no, guarda, vengono prima i miei figli. Il problema è che se io non glielo do il lavoro che mi ha chiesto, io sono sostituibile come tutti. Questo è il mondo in cui viviamo. E ma quindi le parole del Papa sono. Però scusate, no, scusate, adesso voglio chiedere una cosa. No, un attimo, Francesco, poi mi dite: cioè, stiamo dicendo che secondo voi una madre non può dire guardate, ho lavorato 3 domeniche, questa domenica non lavoro. Ma stiamo scherzando. Stai scherzando. Così, io non so cosa dirti. Deve poter scegliere. Non essere nelle condizioni di scegliere. E quindi allora lavoriamo non sempre. Puoi affermarlo a prescindere che deve poter, perché tanta gente per i contratti che ha non può, e la differenza è tra lavorare o dire quella è la porta, sai. Non lo so. Il lavoro in Italia è tutelato, quindi voglio dire il giorno di riposo c'è sempre, e se uno lavora la domenica poi è anche pagato un po' di più, perché i contratti di lavoro in genere prevedono questo. Vi ricordo però, io sono d'accordo con Oscar, aggiungo che l'Italia è un paese difficile da questo punto di vista, e vi ricordo che proprio recentemente Gianni Morandi, fotografato con la sua solita maglietta, la sua solita polo, sì, la grande polemica su Morandi al supermercato, su un mezzo di insulti su Facebook, proprio da questo pensiero residuale, da questa ideologismo che è diffuso in Italia, che vedeva in Gianni Morandi, che faceva la spesa la domenica, un uomo che contraddiva la propria appartenenza a sinistra, il proprio spirito di uomo buono, perché questo è simpaticamente quello che trasmette Morandi. Ecco, contro questa Italia, riaffermare il diritto dovere di lavorare la domenica, che vale per i giornalisti, vale per gli edicolanti, ma per i medici, vale per tutti, per ma medici, se una domenica vale non vuoi niente, lavorare, devi avere il diritto. Se riesci tanto bene, cioè, voglio dire, il lavoro non è una condanna. Cioè, immaginarsi il lavoro come una condanna è anche questa una roba antica. Il lavoro è conquista, e non c'è ragione che il lavoro non sia organizzato in modo civile, quindi permettendo il riposo a chi lo fa. Cioè, se questo non succede, allora ovviamente bisogna lì intervenire, però non c'è ragione di pensare che in Italia il lavoro sia sfruttamento, così come vuole l'ideologia. Ma non è l'ideologia, eh? Per esempio un nostro ascoltatore Marco ci dice: guardate il contratto del commercio, non sei neanche pagato di più, non sei necessariamente pagato di più, ed è questo un altro tema. Sì, sono quelli, ecco, e lì bisogna lavorare. Cioè, e allora non è ideologia, è soldi, no, concretezza. No, cioè proteggere il lavoro domenicale come un lavoro che, essendo effettuato in straordinario, ha bisogno di un pagamento legittimo maggiore, certo entro limiti accettabili, questo è diverso da dire che non bisogna lavorare. Quindi lavorate sul contratto del commercio, cioè cercate di proteggere proteggere la dignità del lavoratore, non abolendo il lavoro, ma migliorandone la qualità. Maurizio da Roma. Sì, buongiorno, saluto sì. Tutti. Possiamo prenderla come una provocazione, ma il mio consiglio è dimettere coloro che erano furieri una volta nell'esercito ad organizzare i turni domenicali, così come facevano per i turni di guardia. Credo che la cosa possa avere uno sviluppo interessante. Cioè, vuoi dire buongiorno e complimenti. Vuoi dire che avremmo la garanzia che funzionerebbe solo sulla carta, perché chiuderebbero gli occhi sul fatto che nessuno lavora, come avveniva in caserma? No, non è così, i furieri. No, dai, vabbè, stavo scherzando. No, ma penso che fosse il senso del rigore, no? Giusto? Ma sicuramente, Maurizio? Perché io sono stato nella compagnia comandi e servizi all'epoca, e quindi vedevo che il furiere effettivamente ricopriva un ruolo molto importante. Ed era appunto, come dice il dottor Telese, molto rigoroso. Sì, effettivamente è così. Vabbè, l'esperienza di altri magari sotto le erbe è stata un po' diversa. Però, ancora messaggi sulla Fedeli. Detto tutto questo, io vorrei ricordare Luca, un tweet di Oscar che cosa, ha segnato il weekend. Luca, fatti dire una cosa. No, di. Questa no, storia dei contratti. Tweet. Dopo, questa storia dei contratti non puoi buttarla lì così, perché siamo pur sempre a Radio 24 e quindi dobbiamo essere precisi. Lo so che rompo i coglioni. Ci sono contratti nei quali il lavoro domenicale non viene pagato chissà come di più, perché offre turnazioni infrasettimanali. L'idea che la domenica in quanto tale, se il tuo monte ore mensile, settimanale, resta uguale, mi spieghi in base a che cosa dovrebbe essere corrisposta, se hai altri giorni per sostituirlo nel tuo contratto? Io perché è domenica, ma ragazzi, cosa vuol dire? Cioè, non è che l'azienda ti sta rubando tempo. Poi ci sono tanti casi in cui non avviene. Bene, però se stiamo parlando di contratti, nei contratti la questione è organizzare la continuità in coerenza con i diritti del lavoratore. Non si può descrivere questo paese come se fossimo Manchester 1807, perché non è così. No, ma io manco un'assoluta, come dire, serenità. E come sai, noi avevamo un contratto, quello dei giornalisti, che dava una forte maggiorazione domenicale. Ricordo benissimo che nel 96 ho lavorato tutte le domeniche per un anno, pur di pagare mutuo e ristrutturazione della mia prima casetta, e ne sono orgoglioso. Alla fine ero fuso, quindi c'è anche l'autosfruttamento che io ho imparato, per cui io volevo lavorare, volevo guadagnare quei soldi, ma non era giusto. Un mio saggio caporedattore, che all'epoca era forse era Mario Secchi, mi disse: adesso tutti fermi. Quindi il buon datore di lavoro dice anche tutti fermi quando quello vuole lavorare sempre. Ma tolto questo, ci sono delle esigenze per chi ha una famiglia, per dire, ma anche per chi è solo, di accudire un genitore un giorno a settimana, e deve essere quello. Andare a un matrimonio, perché la vita sociale è un diritto. Andare a seguire la partita di calcetto di tuo figlio, perché una volta lo devi poter fare. Se mi dici che devi andare al matrimonio è un diritto, e io non sono d'accordo. Sì, nella domenica, perché spesso si svolgono sabato e domenica, allora dovrebbe esserci questo buon senso, che spesso c'è, ma alcune volte no, dei datori di lavoro. Tu ti amministri, ne fai tre e una non lavori, quella che non lavori lo scegli te, e io tengo presente questa tua esigenza, perché spesso, Oscar, c'è la possibilità di far saltare una domenica di lavoro a una di queste madri. Bisogna incastrare dei calendari. Mi rifiuto di pensare che in supermercati che hanno 50-60 dipendenti non si può dare a una madre, per vedere la comunione del figlio, quella domenica, no? Siamo alla follia, e quindi è giusto diritto di scelta. Però vedi, stai parlando di una sistemazione, non più di un pieno diritto. Su questo io ti seguo. Interpretazione. Sediamo e vediamo di soddisfare le esigenze. Bravo, il furiere intelligente di cui parla il nostro ascoltatore di Roma, Monica da Macerata. Buongiorno a entrambi. Sì, vai. Io volevo intervenire semplicemente per dire che sono completamente d'accordo con Oscar Giannino. perché dipende semplicemente quanto un lavoratore può permettersi di dire no. Purtroppo. Ti quindi pare poco? È tutto no, qua. No, non mi pare poco. Non è poco. Non mi pare poco, però è così. Il mercato è questo, come cambiano tutte le cose sotto qualsiasi punto di vista, sta cambiando anche questo. Secondo me siamo un pochino in ritardo, perché alle 8 di sera o alle 9 io sono una di quelle che vorrebbe andare a fare la spesa, però quando il mio titolare mi chiede un documento per il lunedì mattina e devo studiare per forza, lo faccio, perché di Monica ne trova 150. Esatto. Quindi è così. Però se non ti senti completamente libera, questo può essere un problema. Abbiamo salutato, cioè non abbiamo salutato Francesco Merlo, così come Alberto Castelvecchi che ci ha lasciato perché incalzavano le telefonate. E Monica, vuol dire qualcos'altro? Se no passiamo a Dario da Milano. No, semplicemente vi ringrazio, e comunque la vita è una questione di scelte per chiunque, quindi una bella qua. Voce determinata, io la assumerei, la farei lavorare 400 giorni all'anno, Monica. Dario da Milano. Ah, sfruttatore. Dario, ci sei? Buongiorno. Vai. Sì, buongiorno e buona mattinata a tutti voi. Allora, io lavoro per un concessionario d'auto da 18 anni. Nell'ultimo periodo seguo anche il salone. Io vi assicuro che non si è venduta una macchina in più tenendo aperti la domenica. La domenica è la giornata per il marito, che la moglie fa le pulizie e non sa cosa fare, ma possa andare al bar, viene da noi. Lui potrebbe comprare la macchina sicuramente dal lunedì al sabato, ve lo assicuro. Un'altra cosa, io di domenica lavoro gratis, non posso prendere il giorno libero, perché sennò fai anche brutta figura. E ultima cosa, vorrei che fossero tutti aperti, avvocati, notai, banche, tutti i servizi. Ah, questo allora è buono, tutti o nessuno. Però io mi allora auguro, però ti lancio una provocazione, spero sì, che non siano le donne a fare le pulizie, ma vengono le donne a prendere dei bolidi, perché insomma, se fosse che la domenica la donna fa le pulizie... E invece è così, è triste così, perché arrivano in tuta col bambino. Cioè, il problema oggi è come abitua una persona. Io ho sempre mangiato, quando c'erano le drogherie che chiudevano alle 7:30, non è mai morto nessuno di fame. Adesso sembra che se alle 9 non è aperto un centro commerciale, la gente muore di fame, è l'abitudine. Io ho venduto una macchina. Questo è interessante. Ho venduto la macchina a uno che segue i centri commerciali, ma li segue veramente. La domenica sono in perdita, tengono aperti solo i supermercati, dei negozi ne frega niente, perché loro acquistano la merce a 180 giorni e la rivendono al dettaglio subito. Il loro interesse è quello. Lo so, è un interesse punto commerciale legittimo, però mica un crimine. Salvatore da Palermo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, io volevo sollevare una piccola questione. Ho sentito che si parlava di contratto nazionale del lavoro, della previsione di una domenica libera ogni tre. Io da 20 anni lavoro nel retail per grosse multinazionali, ho cambiato diverse aziende, sempre nei centri commerciali. Purtroppo esiste una realtà sommersa, io faccio il direttore di negozio. Qualora ci fosse una persona nello staff che chiedesse il diritto di avere una domenica libera ogni quattro, spesso viene vista meno di buon occhio rispetto... Ma perché? Perché? Ecco, non perché, per un problema tecnico, da quello che ci dici. No, perché io ho sempre avuto disposizione, la domenica si lavora tutti, perché c'è più gente, si fanno più soldi, la domenica tutti in turno. Ho capito. Qualora qualcuno mi dovesse dire... Diamo spazio anche a Oscar da Sondrio. Grazie Salvatore per la testimonianza. Oscar... ragazzi... No, Oscar da Sondrio, poi ci sei, sì, tu da Milano, vai, rapidissimo, esatto, in suo onore ti sei ribattezzato, vai. Allora, sul discorso domenicale, io sono consulente del lavoro, tra poco poi ho un incontro sindacale in un'azienda, anzi sono uscito dal loro spaccio mentre bevevo il caffè per discutere di alcune cose, ma non riguarda il lavoro domenicale, però in generale la mia convinzione è semplice, il diritto a non lavorare la domenica, sì, ce l'hai se, sì, non vai a lavorare in un'azienda che già prima tu sai che quell'azienda... Chiarissimo, devi saperlo prima. L'ultima parola, Oscar, in un secondo, la morale del giorno. La Oscar. Morale del giorno è che ieri è cominciato formalmente la campagna elettorale e Renzi ha promesso 50 miliardi, testuale, di spesa in più in deficit. Questa sarà la sua campagna elettorale per la finanza pubblica e il mio commento è auguri! Ci sentiamo domani.